faccio dentro con metriche inedite. Raccaccio pensieri sul fondo astrascico e sfiascico l'etere. Se ogni momento è più drastico a mettere sta prospettiva, smettere mi porterebbe alla deriva. La merda da cui derivo che delinea il mio spazio, l'andazzo che seguo, va di passo passo ogni incastro che scrivo. In testa un piano ben preciso, apprezzo il suono grezzo ad ogni pezzo, trovi un pezzo di cuore reciso. Il mio destino è già deciso, in bilico sul ciglio ad ogni passo, son più cinico, autodistruttivo. Distingui questa roba dal tuo meglio divo, nulla in tasca, il culo in branda, lo levo alle 4 del mattino. Mi trovi a correre su un filo e non finire faccia a terra, resta il solo motivo per cui continuo. Coltivo frustrazione usando questo come mezzo, alimento la raccolta di soluzioni cercate da un pezzo. A vivere qua dentro senza tempo, senza senso, senza uscita, con la penna tra le dita diventando un mostro. Chiuso in uno spazio non tangibile, a contatto con il limite, ma l'indole di evadere pur continuando a vivere qua dentro senza tempo, senza senso, senza uscita, con la penna tra le dita diventando un mostro. Chiuso in uno spazio non tangibile, a contatto con il limite, ma l'indole di evadere a qualunque costo. Sono in cerca di una soluzione contro la sentenza, i reati sono sempre travisamento, resistenza, unica arma in tasca ho l'irriverenza. Questo è il prezzo da pagare per avere una coscienza, assenza, una direzione, assenza di emozione, tra azione o finzione. Io scelgo il rancore, rinchiusa da ste mura, cercando una direzione. Soggetti esclusi, noi propensi all'evasione. Muore l'ultima speranza dentro a questa stanza, cade l'ultima lacrima da questo cielo di carta. È il mio inchiostro, è l'ingiustizia per la pena, per loro sono un mostro, una crepa del sistema. Appena sento il fischio di rivolta, il mio segnale, controllo nel taschino, ho tutto il mio arsenale. Siamo in trappola, troppi reati per l'accuso, la pillola suicido, riesce il piano per la fuga. Sono costretto a vivere qua dentro senza tempo, senza senso, senza uscita, con la penna tra le dita diventando un mostro. Chiuso in uno spazio non tangibile, a contatto con il limite, ma l'indole di evadere pur continuando a vivere qua dentro senza tempo, senza senso, senza uscita, con la penna tra le dita diventando un mostro. Chiuso in uno spazio non tangibile, a contatto con il limite, ma l'indole di evadere a qualunque costo. Preda dell'ansia oppure schiavo del mio stesso pensiero, in continua fuga da prigioni mentali fatte di vetro, alterno fasi di claustrofobia, frasi di filosofia, prima che il tempo faccia il suo decorso e mi riporti al via. Piego le sbarre in cui io stesso mi rinego e riempio barre in cui non sempre mi ci rivedo, un alter ego che dietro quelle sbarre scaccia dalla rabbia, grida e respira sempre di meno. È inutile che spiego, qua i punti di vista sono messi al bando, non c'è tempo per capire chi realmente si stava sbagliando. Per il game over basta un attimo, e la sorte di ogni uomo si decide nel tempo di un solo battito. Sperando che la fuga sia la soluzione giusta, che l'uscita sia la fine della strada più angusta, che tutto questo abbia un senso, non ne abbia, ognuno per la propria, per non sentire più il freddo di questa gabbia. Costretto a vivere qua dentro senza tempo, senza senso, senza uscita, con la penna tra le dita diventando un mostro. Chiuso in uno spazio non tangibile, a contatto con il limite, ma l'indole di evadere pur continuando a vivere qua dentro senza tempo, senza senso, senza uscita, con la penna tra le dita diventando un mostro. Chiuso in uno spazio non tangibile, a contatto con il limite, ma l'indole di evadere a qualunque costo.